Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo anche da alcune dichiarazioni oggi del capo economista dell'OCSE, che ha detto per l'Italia non serve una manovra aggiuntiva, servono politiche per la crescita. E il tema della crescita sarà un po' il filo conduttore di questa puntata, perché come sa chi ha letto Sole 24 Ore oggi in prima pagina, nel decreto sviluppo c'è stato un dietrofront sulla riduzione della soglia per il credito d'imposta al project financing. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sarà più difficile per le imprese del mondo delle costruzioni accedere alle agevolazioni, agli sgravi fiscali che il governo aveva annunciato. L'emendamento che abbassava da 500 a 100 milioni l'importo minimo delle nuove infrastrutture per avere agevolazioni sul credito d'imposta e infatti non è passato, e quindi sostanzialmente solo le grandi imprese, insomma 500 milioni in su, potranno, come importo, potranno avere questo credito d'imposta. Chiaro è che questo preoccupa molto, anche perché, diciamola tutta, nel decreto sviluppo era una delle cose più concrete e principali. Il piano energia va bene, le start-up vanno bene, ma parliamo un po' di cose marginali rispetto all'impatto che poteva avere in un settore, come ieri ricordavamo col presidente del Lance Buzzetti, massacrato dalla crisi, 320.000 occupati persi da quando è iniziata la crisi nel settore delle costruzioni. Poteva avere, dicevo, un impatto molto importante anche per imprese medie, quindi appalti da 100 milioni in su. Così non sarà. Parleremo anche di un altro elemento che sta creando molte tensioni, lo faremo nella seconda ora del programma. Mi riferisco alle dichiarazioni del ministro alla funzione pubblica Filippo Patroni Griffi, il quale ha sostanzialmente detto: attenzione, nella pubblica amministrazione ci sono 260.000 precari, considerate tutte le forme di flessibilità, non è possibile pensare a una stabilizzazione di massa, cioè a trasformare questi contratti in contratti a tempo indeterminato. Ci sono 130.000 precari nella scuola, 115.000 nella sanità e enti locali, 15.000 nelle amministrazioni, 7.300 eccedenze nelle amministrazioni centrali dello Stato. E il tema chiaramente ha creato molta incertezza, perché addirittura la CGIL oggi ha detto il ministro è in stato confusionale, i numeri cambiano troppo spesso. Però da quello che Patroni Griffi ha detto, praticamente la metà di questi almeno non potranno essere stabilizzati, che vuol dire circa 130.000 persone. Devo dire che forse ci aspettiamo anche un intervento del governo oggi, almeno in tarda serata, perché bisogna capire che cosa capiterà a queste 130.000 persone, o meglio, se il governo di fatto ha annunciato un monte di esuberi pari a 130.000 persone. Faccio notare che già a fine anno scadranno 80.000 precari, il contratto di 80.000 precari. Questi temi, ci occuperemo anche della giornata finanziaria, come sempre, quindi dell'andamento della borsa. Avremo anche un approfondimento sui metalmeccanici. Oggi infatti siglato il contratto aumento di 130 euro. È il secondo accordo separato, nel senso che la FIOM CGIL non ha firmato, come non firmò il contratto del 2009, contratto che riguarda quasi 2 milioni di lavoratori. L'incremento salariale appunto sarà di 130 euro come aumento medio al quinto livello. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Facebook per chi volesse scriverci tramite internet. La borsa, dicevo, oggi qualche realizzo, meno 0,60% Milano, invariata Parigi, invariata Francoforte, Londra più 0,07%, la battuta non la faccio, ma c'è il caso in borsa che è Saipem. Perché dico Saipem? Meno 4,33%, il titolo ha avuto anche una sospensione e trascina con sé la controllante Eni, meno 1,87%, ecco perché poi la borsa di Milano fa peggio delle altre borse europee. Titolo sospeso, dicevo, perché? Perché nel pomeriggio ci sarà, dovrebbe essere già in corso, un consiglio di amministrazione straordinario. Il tema all'ordine del giorno è il ricambio al vertice di Saipem, già anticipato oggi come ipotesi dal Sole 24 Ore, e dopo l'inchiesta della magistratura algerina su Sonatrach, nelle cui maglie sarebbe finita anche, rimasta invischiata comunque anche Saipem, ecco perché il titolo perde così tanto. Ne parleremo a mercati chiusi. Rapidamente le altre notizie in breve. Oro e petrolio. Oro sale leggermente in Asia dopo l'aumento delle riserve della Banca Centrale Coreana, il petrolio invece è sempre in calo a 88,40 dollari, mentre oggi si è saputo, e lo ha diffuso l'agenzia di stampa Radio Cori sulle 24 ore, che il re degli hedge fund americani, fondi altamente speculativi, altamente rischiosi, John Paulson, un personaggio famoso perché scommise sul crollo dei mutui subprime a suo tempo, ma ha scommesso quest'anno molto anche sulla fine dell'euro. Ha ipotizzato infatti un peggioramento del debito sovrano e ha perso. Lo dico perché lo ha ammesso lo stesso Paulson. Ha detto dopo le prese di posizione di Mario Draghi la situazione è cambiata completamente. Ha ridotto lui quindi la sua esposizione, la sua scommessa su un euro che non ce l'avrebbe fatto, comunque su un peggioramento della situazione, ma intanto ha perso il 17% col suo fondo che si chiama Advantage Plus. Citigroup annuncia, il colosso bancario americano, 11.000 licenziamenti, il titolo guadagna il 4,5%, ma dall'America è arrivata anche la notizia che il settore privato ha creato a novembre 120.000 posti di lavoro, un dato inferiore alle attese. Ma c'è una variabile qui, l'uragano Sandy, che ha causato la chiusura di molti impianti. Passiamo come sempre all'Europa. Lo spread resta intorno ai 300 punti, 310 oggi. Anche la Spagna si mantiene a 408 punti come differenza tra quanto costa lei indebitarsi rispetto a quanto non costi alla Germania. E dalla Spagna arriva una notizia, questo mare di notizie negative dalla Spagna, che va accolta con favore. È tornata a risalire dopo più di un anno la produzione industriale spagnola, dello 0,6%, non capitava da 13 mesi, e ricordo che a settembre vi fu una forte contrazione, meno 12% rispetto a settembre del 2011. Ancora, dicevamo del contratto dei metalmeccanici firmato oggi, 130 euro di aumento medio al quinto livello. La nostra Alessandra Schepisi ha raggiunto il direttore generale di Federmeccanica, Roberto Santarelli, che parla di un buon contratto per le due parti. Un contratto, riteniamo, equilibrato, frutto di un evidente senso di responsabilità manifestato dalle associazioni che l'hanno firmato, perché in un contesto così complesso ovviamente rinnovare un contratto di lavoro che comporta oneri salariali, anche se a fianco ci sono strumenti innovativi che aiutano la crescita della produttività dell'azienda, però in momenti come questi, ecco, non è cosa facile. C'è soddisfazione da parte di tutti i sindacati che l'hanno firmato, ovviamente, ma la FIOM è rimasta fuori. FIOM che tra l'altro è scesa in piazza, che ha presentato anche un ricorso contro Federmeccanica. Sì, ne abbiamo avuto notizia dalla stampa, per la verità ancora non c'è stato notificato e quindi non sappiamo esattamente di cosa si tratti. Certamente siamo un po' meravigliati, per la verità, nella misura in cui noi con la FIOM abbiamo sempre cercato di trovare soluzioni che consentissero alla FIOM di partecipare al negoziato, anzi abbiamo avuto due incontri in quest'autunno e abbiamo avuto un ricchissimo, ampio carteggio per cercare la modalità. Il punto fondamentale è stato che mentre noi eravamo al tavolo per rinnovare il contratto del 2009, la loro posizione era quella invece di voler rinnovare il contratto del 2008, che era quello da loro firmato. Così appunto il direttore generale di Federmeccanica, Landini, e quindi il segretario della FIOM, Maurizio Landini, ha detto: i nostri sindacati hanno capitolato, hanno messo la firma, la critica a CISL e UIL che hanno firmato. Landini, riferendosi a FIM appunto e UIL, ha detto: non capiscono che non hanno firmato un contratto ma la loro fine. E invece completamente diverso il giudizio di Rocco Palombella, che è segretario generale della UILM, quindi la parte della UIL che riguarda il mondo della metalmeccanica, che sempre a microfono la nostra Alessandra Schepisi ha così commentato la decisione della FIOM di non firmare, di non sottoscrivere l'accordo. Non poteva concludersi in modo diverso, quindi non esiste il contratto separato nel modo più assoluto. Sì, però di fatto la FIOM è rimasta fuori. Ma era già fuori dal contratto del 2009, ha continuato a rimanere fuori. Lei si è presentata a una piattaforma da sola e con l'obiettivo di rimanere da sola, quindi mi sembra, voglio dire, molto minimale discutere di un rinnovo contrattuale immaginando un'organizzazione che ormai da anni ha deciso di non firmare i contratti. Quindi ecco, cosa risponde alla FIOM che parla di strappo democratico? Ma chi li procura gli strappi democratici? Sono loro che non firmano i contratti, sono tutte le categorie, fanno i contratti unitariamente, questa organizzazione decide di non farlo e poi parla di ma quale strappo, non so di che cosa parla, per cui più che rivolgerla a me la domanda va rivolta alla FIOM, insomma. Io, la mia organizzazione insieme alla FIM hanno preparato una piattaforma e hanno concluso il contratto nazionale di lavoro. Per quanto riguarda il contratto, a parte la questione economica, quali sono i punti più innovativi? Ovviamente un contratto molto corposo, perché non fa altro che incrementare un fondo di fondo integrativo sanitario, modifica gli inquadramenti professionali, rafforza l'istituto della malattia, stabilisce delle maggiorazioni per quanto riguarda le identità di turni e di straordinario, quindi un contratto corposo che noi riteniamo di essere positivo in una situazione di crisi come questa. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu. E parliamo proprio di auto blu nel nostro purtroppo quasi quotidiano appuntamento con alcuni sprechi della pubblica amministrazione, alcuni dico, non vi dico le mail che sono arrivate, gli sms, i commenti sulle feluche, io non ce l'ho con gli ambasciatori, qualcuno mi ha scritto, però obiettivamente ieri stipendi superiori ai capi di Stato in cui, nei paesi in cui operano, 16.000 euro per il figlio all'anno, per un figlio all'anno, per l'ambasciatore a Parigi con 320.000 euro netti, era un caso che abbiamo citato, è anche uno dei casi più emblematici, perché ripeto, con il massimo rispetto per la Farnesina, ma mi dovete spiegare se siamo ancora ai tempi del congresso di Versailles o di Vienna e abbiamo bisogno dell'ambasciatore con le stesse funzioni a Parigi, oppure in questi casi ormai il mondo è andato avanti e le funzioni sono un po' diverse, forse dovrebbero essere più di supporto commerciale alle nostre imprese all'estero, vabbè. Ma oggi non voglio parlare di ambasciatori di feluche, ma di auto blu, come cita anche Rino Gaetano. Perché? Perché abbiamo due notizie completamente diverse e arrivano da due regioni molto diverse. Dalla Sicilia, non ce l'abbiamo con la Sicilia, però ci fornisce ogni giorno materiale, il presidente uscente dell'Assemblea regionale siciliana, uscente perché hanno avuto le elezioni, c'è una nuova assemblea, c'è un nuovo governatore e quant'altro, Francesco Cascio, il quale tra l'altro è stato pure rieletto all'Assemblea regionale nelle liste del PDL, però lui in quanto presidente uscente avrà come benefit, non è che se ne approfitti, purtroppo fa parte del regolamento dell'Assemblea regionale siciliana, avrà come benefit la stanza, l'auto blu, un autista e diversi assistenti. Perché? Perché è il presidente uscente, ma se è uscente è uscito, no? È un gerundio, uscente, uscendo, non sarebbe gerundio. Allora, se uscendo, se sta uscendo, lasciasse anche la stanza dell'autoblu autista assistente, tanto comunque è membro dell'Assemblea regionale siciliana, quindi ha altri benefit, avrà altre diare, vitalizi. Non si capisce perché il presidente uscente debba avere questo, lo dico con il massimo rispetto verso Francesco Cascio. In una regione, ripeto, che se fosse un'azienda sarebbe già stata commissariata per i conti che ha, mentre saluto con, e lo dico con, massimo, con la massima contentezza, quanto ha deciso oggi il governatore della regione Veneto Luca Zaia, perché ha mandato una lettera a tutti i dirigenti che ha nominato invitandoli a non usare l'auto blu, anzi addirittura a venderla se possibile e sfruttare le utilitarie di servizio e senza l'autista. Perché, dice Zaia? Perché i vertici aziendali della regione, ossia i presidenti delle società controllate o partecipate dall'ente, gli amministratori unici di enti e di aziende, i direttori generali delle ASL, devono rinunciare alle auto blu per contenere la spesa, ma anche, che mi sembra altrettanto importante, dare un segnale di sobrietà. Bravo Zaia, e noi apprezziamo sempre, non, come vedete non ce l'abbiamo con alcune regioni, con alcuni partiti, citiamo le notizie. E perché non seguire lo stesso esempio anche nell'Assemblea regionale siciliana, Crocetta, visto che lei è portatore di una nuova area, così dice, si muova anche su questo. Già abbiamo apprezzato l'iniziativa verso i 30 capi redattori dell'ufficio stampa della Regione Sicilia, tutti i capi redattori. Questo per quello che riguarda invece la Regione Veneto. Adesso però vorrei partire da una notizia che ha un suo peso anche politico, perché sentire il capo economista dell'OCSE Padoan che dice basta austerità, servono stimoli. Beh, visto che l'OCSE è l'organismo della cooperazione e dello sviluppo economico, organismo internazionale, e quindi non è partito politico, non ha un interesse politico, insomma, vedere che anche Padoan riconosce gli effetti negativi di un eccesso, o meglio del solo rigore e contenimento della spesa pubblica, fa una certa impressione. 349-238-6666 per i vostri SMS. Paesi ad alto debito come l'Italia non devono assolutamente disfare quanto hanno fatto e devono proseguire nel programma di risanamento, dice Padoan oggi, ma nel breve termine, data la recessione, sarebbe sbagliato aggiungere un'altra stretta di bilancio a quelle già attuate, ossia sarebbe sbagliato fare un'altra manovra finanziaria, manovra correttiva. Continua il vice segretario generale e capo economista dell'OCSE, non occorre altra austerità, piuttosto servono stimoli, dato il peggioramento delle condizioni economiche, l'obiettivo per il 2014 italiano di riduzione del debito pubblico probabilmente non sarà raggiunto. Se uno volesse conseguirlo dovrebbe fare un'altra manovra, continua Padoan, ma non serve secondo noi, perché il pareggio dei conti pubblici, cioè il deficit a zero, sarà raggiunto in Italia nel 2013-2014. Quello che serve è una dichiarazione collettiva dei governi dell'area euro che dia carattere consensuale a questo adeguamento dei traguardi. Allora, tradotto vuol dire che si può anche un po' derogare agli obiettivi che ci si è posti sul debito, purché sia una decisione comune di tutta l'Europa. Derogare perché? Perché servono stimoli per l'economia. E anche di questo parliamo con il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini. Buonasera. Buonasera. Dunque, le dichiarazioni del capo economista dell'OCSE, Piercarlo Padoan, nostro ospite già altre volte, si aggiungono a una, così, a un'opinione che diventa sempre più diffusa, devo dire che anche in Germania forse qualche riflessione la stanno facendo, sul fatto che le sole politiche di risanamento, per quanto debbano essere continuate e debbano proseguire, da sole non bastano. A me ha fatto molta impressione che l'OCSE dicesse no a un'altra manovra aggiuntiva in Italia, e poi però chiedesse anche sì, di andare avanti con il pareggio di bilancio, con il risanamento dei conti pubblici, ma di stimoli alla crescita. Nel giorno in cui appunto il governo, o meglio attraverso anche il Parlamento, c'è una marcia indietro sugli incentivi alle opere infrastrutturali. Le sembra che in questo momento stia mutando l'aria a livello europeo, perché poi è chiaro che le politiche potrebbero essere solo di carattere europeo o principalmente di carattere europeo in tema di crescita, che fino a un anno fa sembrava secondaria rispetto al risanamento? Effettivamente anche le analisi condotte dal Fondo Monetario Internazionale hanno mostrato come le cosiddette elasticità, cioè l'impatto che le manovre possono, di contenimento del deficit, possono avere in un periodo recessivo, sono molto più negative di quello che si stimava una volta. Cioè avere fatto tasse e tagli avrà migliorato i conti pubblici ma ha aumentato la recessione, possiamo dire. E soprattutto averlo fatto tutti insieme. Sì. Questo ha determinato delle aspettative molto negative tra le famiglie e le imprese, che quindi bloccano le decisioni di consumo, le decisioni di investimento. Ora si vede qualche spiraglio a livello internazionale, è vero, il commercio con l'estero sta rallentando, ma non così tanto come qualcuno paventava. Gli Stati Uniti dovrebbero riuscire a superare il rischio di una improvvisa manovra restrittiva sul deficit, e quindi la vera domanda è come fa l'Europa ad agganciare questa ripresa non schiacciata da questo velo di pessimismo, anzi cappa di pessimismo che sta bloccando. E in questo senso i governi possono, al di là delle misure concrete in termini quantitativi, mandare dei segnali di carattere psicologico anche molto importanti, che possono essere colti sia da consumatori che da imprenditori. Ecco, voi quando fotografate l'andamento dell'industria, dei servizi italiani, dell'occupazione, giustamente utilizzate sempre dati aggregati, cioè ci date una media, un dato complessivo. In realtà però, Presidente, noi ogni tanto diciamo che l'Italia è un paese lungo, c'è chi dice troppo lungo, a dire che è molto diverso al suo interno. Quanto diciamo comprimono la diversità o quanto la necessità di avere dati aggregati comprime poi quella che è una fotografia un po' più variegata? Mi spiego, sull'export, lei ricordava come c'è stato qualche segnale di rallentamento, poi però noi sappiamo che guardando dentro le medie imprese che già sono in filiera, che già sono presenti sui mercati, o anche le piccole che sono fornitrici delle medie grandi, vanno bene, cioè non hanno grossi problemi. Poi ci sono altri settori che invece sono in estrema difficoltà. Ieri con il presidente dell'ANCE Buzzetti parlavamo delle costruzioni, ma non solo, quelli legati al mercato interno. Cioè, quanto è più sfumata la fotografia rispetto a quello che voi date come dato complessivo? Ma sai, in realtà anche i dati ANCE commentati dal Presidente dell'ANCE sono nostri, per cui noi in realtà diamo dati molto disaggregati, sempre più disaggregati, soprattutto laddove le rilevazioni sono di tipo censuario. Per esempio sulle esportazioni abbiamo mostrato come oltre il 50% delle imprese esportatrici nel primo semestre del 2012 hanno aumentato il fatturato, quindi sempre di più diamo questi dati così dettagliati. Le costruzioni, come lei diceva, sono un settore chiaramente in crisi. Abbiamo recentemente dato dati sul terziario che mostravano come alcuni settori, per esempio il commercio all'ingrosso, i trasporti, il magazzinaggio, stanno mostrando piccoli segnali di ripresa, come se appunto la movimentazione delle merci stia aumentando. Il problema è che noi dobbiamo cercare di non disturbare troppo le imprese, non possiamo fare censimenti ogni mese, e quindi talvolta i dati hanno una rappresentatività territoriale o settoriale limitata. Ecco, su questo però voi avete un censimento in corso, che è il censimento delle imprese, perché è un censimento molto importante, tra l'altro riguarda le imprese e le istituzioni non profit. Entro il 20 dicembre di quest'anno, cioè mancano meno di 20 giorni, meno di 15 giorni, devono restituire il questionario compilato, e ci sono anche, lo dico alle imprese in ascolto, agli imprenditori in ascolto, ci sono anche degli accertamenti e delle sanzioni, nel senso che chi non compila questo questionario verrà sottoposto all'accertamento della violazione dell'obbligo di risposta, e poi riceverà una diffida da adempiere, in caso di mancata risposta sarà recapitata la notifica e la contestazione, tra l'altro anche con un pagamento. Ora, come sta andando questo questionario, che dovrebbe permettere a voi di avere una fotografia più dettagliata, più a fuoco, di come si sta muovendo il nostro mondo delle imprese, dei servizi e del non profit? È un censimento molto diverso dal passato, un po' stile quello della popolazione, cioè le imprese e le istituzioni non profit possono in primo luogo rispondere via internet e in secondo luogo hanno dei punti di accesso, in particolare presso le camere di commercio, per restituire questionari eventualmente compilati a mano. Il questionario è molto diverso rispetto al passato, è molto qualitativo, in questo senso è anche più facile da compilare e indaga temi come la governance delle imprese, l'internazionalizzazione, il rapporto con la finanza, chiaramente l'innovazione, la gestione del capitale umano, cioè tutti quegli elementi che ormai sappiamo incidono molto sulla crescita non solo del valore aggiunto ma anche dell'occupazione. In questo senso è un censimento che ci farà capire punti di forza e di punti di debolezza del nostro paese con un livello territoriale molto spinto, è un campione, le imprese sono solo 250.000 rispetto ai 4 milioni che avremmo potuto disturbare, invece sul non profit è un aggiornamento rispetto a 10 anni fa indispensabile perché nel frattempo questo settore potenzialmente fatto di oltre 450.000 soggetti, ma in realtà saranno certamente di meno, è un settore molto variegato, ci sono strutture che fanno assistenza molto solide, ormai consolidate nel tempo, che danno anche molta occupazione e invece un pulviscolo di piccole iniziative che magari sul piano economico non sono molto importanti, ma sul piano sociale svolgono un ruolo fondamentale, soprattutto in un momento di difficoltà delle famiglie come quello attuale. Anche qui le risposte mi sembrano molto diverse, nel senso che avete avuto a Bolzano e Trento il 61% e il 50% di adesioni, poi il Veneto 44,7%, agli ultimi posti Calabria 28% non risposto, è dato il questionario, Lazio 26%, Campania 23,3%. Io invito gli imprenditori, ripeto in ascolto, non è una minaccia però, a ricordarsi che sono previste anche delle sanzioni se non date la risposta su questo. Un ultimo dato, Presidente Giovannini, invece riguarda l'occupazione. Anche qui noi diamo un dato sempre complessivo sui giovani, i picchi toccati dai giovani tra i 15 e i 24 anni, 35% di disoccupazione, l'11% su base invece dell'intera popolazione. Però guardando le singole realtà territoriali però si scopre un paese non diviso in due o in tre, ma diviso anzi in 10, 15 pezzi diversi. Effettivamente è così, al di là delle solite differenze drammatiche tra nord e sud, abbiamo differenze forti tra maschi e femmine, abbiamo differenze tra aree urbane e naturalmente aree meno urbane. In una parola, quello che sta succedendo è questo. L'occupazione sta diminuendo, ma non in maniera terribile rispetto al passato. Ricordiamo che se una persona è in cassa integrazione, formalmente è ancora un occupato, quindi gli ammortizzatori sociali hanno effettivamente ridotto l'impatto sull'occupazione. Invece abbiamo molte persone, soprattutto giovani e donne, che prima erano inattive e quindi non contavano tra i disoccupati, che si stanno mettendo alla ricerca di un lavoro. Questo vuol dire, nonostante le difficoltà del mercato, questo vuol dire che le famiglie sono veramente in grande difficoltà. Una precisazione soltanto sui giovani. È vero che oltre il 35% dei giovani che cercano lavoro non lo trovano, ma naturalmente molti giovani studiano o fanno altro, per cui i giovani che sono disoccupati sono poco più del 10% del totale dei giovani, mentre invece tra quelli che cercano lavoro effettivamente più di un terzo non lo trova. ...17:44 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, parliamo adesso di borsa e poi arriviamo al tema dei precari nella pubblica amministrazione da un lato e del venir meno delle agevolazioni fiscali, sgravi fiscali o credito d'imposta per le imprese delle costruzioni sopra, diciamo, o anzi sotto i 500 milioni di euro, ripeto, una delle poche cose concrete che c'era nel decreto sviluppo, altre cose vi sono, ma insomma quella poteva avere un impatto molto molto forte. Comunque, la borsa oggi Milano negativa di 0,5 punto percentuale, mentre guadagnano lo 0,30 sia Parigi che Francoforte, 0,5 punto lo guadagna il Dow Jones in questo momento, quindi l'America, lo 0,22% è il rialzo di Londra, euro a quota 1,30,76, borsa. Il caso oggi si chiama a Milano soprattutto Saipem e di conseguenza anche Eni, che è la controllante di Saipem. Saipem perde 4,33%, Eni ne risente meno 1,76%. C'erano già delle indiscrezioni oggi sul Sole 24 Ore. Andrea Fontana, Radio Cor, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, il motivo del caso di Saipem, l'avvicendamento ai vertici, possibile. Intanto vorrei sapere se è in corso il CDA dell'Eni e poi vediamo. Sì, è ancora in corso, è iniziato intorno alle 16.30 e ancora non ci sono comunicazioni, tant'è vero che poi la borsa ha deciso di sospendere definitivamente il titolo fino alla fine della seduta e appunto ha chiuso in perdita del 4,3%, il titolo è stato sospeso praticamente dalle 14 del pomeriggio. Eh sì. E il motivo di questo calo? Il motivo è questa possibile cambio al vertice a sorpresa del gruppo Saipem in seguito all'inchiesta per corruzione che in Algeria sta coinvolgendo la società petrolifera nazionale Sonatrach, con cui Saipem aveva anche firmato quest'estate un contratto. L'inchiesta riguarda appunto l'accusa ai vertici del gruppo Sonatrach di corruzione e malversazione, e dentro questa accusa ci sarebbero anche le modalità con cui è stato siglato il contratto con Saipem. I media algerini parlano di contratto firmato in condizioni dubbiose in cambio di servizi e commissioni, da qui il CDA a sorpresa di Saipem con la probabile uscita dell'amministratore delegato Pietro Franco Tali e quindi la decisione di cambiare i vertici del gruppo. Ancora Eni, meno 1,6%, dicevamo meno 1,76% per la precisione, sulla scia di Saipem. Buona giornata oggi invece per i tecnologici, ST Microelectronics più 2,80%, devo dire bene anche Azimut più 3,44%, ST. ST. Sì, per quanto riguarda ST, una buona performance che va in scia al balzo che ha realizzato Nokia ad Helsinki. Il titolo ha guadagnato anche il 7% sulla scia del lancio del nuovo smartphone Lumia in partnership con China Mobile, una notizia che ha fatto bene a Nokia e al settore tecnologico. Ricordiamo Nokia recentemente depressa anche dalle prospettive del business, ma era molto atteso questo lancio. E il mercato ha reagito positivamente. Bene, Azimut più 3,44, Mediaset più 1,70, Buzzi Unicem più 1,70, bene anche Finmeccanica più 1,20, di nuovo le ipotesi di quella che sta diventando un po' una telenovela, ossia le trattative sulla vendita di Ansaldo Energia e di Avio. Sì, per quanto riguarda Ansaldo Energia, l'indiscrezione oggi riportata al Sole 24 Ore è di una nuova azienda termomeccanica che sarebbe entrata nell'accordata che sta predisponendo il fondo strategico italiano per investire e rilevare appunto Ansaldo Energia, anche se il mercato continua a credere che l'offerta migliore alla fine sarà sempre quella di Siemens. Ricordiamo che l'obiettivo dei vertici di Finmeccanica è cedere la partecipata entro la fine dell'anno per poter avere un beneficio importante sulla posizione finanziaria, quindi la riduzione dell'indebitamento. Stessa cosa vale per Avio, di cui Finmeccanica ha una piccola minoranza, il 14%, ma comunque rilevante dato il valore della società. Sono tornate le voci di interesse da parte del gruppo francese Safran e quindi vedremo se entro la fine dell'anno si concretizzerà una o due di queste dismissioni da parte di Finmeccanica. Allora andiamo, prima di passare a Piaggio, Telecom Italia alla fine più 0,70, domani però c'è un consiglio di amministrazione che dovrebbe decidere il destino della SET, della rete televisiva di proprietà del gruppo Telecom. Beh, il condizionale d'obbligo, perché son circolate anche indiscrezioni secondo cui appunto questo CDA alla fine si concluderà in un nulla di fatto. Sul tavolo sicuramente ci sarà la questione dello scorporo della rete, ci sarà la questione della proposta fatta dal imprenditore egiziano Saviris di aumento di capitale, attraverso cui lo stesso Saviris entrerebbe nel capitale di Telecom, ma ci sarà, come tu ricordavi, anche la questione della SET. E proprio a questo proposito, pochi minuti fa l'investitore l'investitore Tarak Ben Ammar, che siede nel CDA di Telecom, ha parlato di due offerte arrivate per T-Media e appunto per la Sette, due le conoscevamo, certo, da parte di Clessidra e da parte di Cairo Communication, e Ben Ammar ha parlato anche di una terza offerta che potrebbe arrivare nella notte. Questo riferimento ci lascia pensare che sia tra Italia il gruppo H3G dell'imprenditore cinese Li Ka-shing che possa mollare gli indugi e fare un'offerta anche lui. Citavi Tarak Ben Ammar, tra l'altro oggi ha fatto una conferenza stampa che ha avuto anche un impatto sul titolo Mediaset, +1,77, dicevo prima. Certamente l'attenzione che i media hanno riservato per questa conferenza stampa di Tarak Ben Ammar nei giorni scorsi ha lasciato intendere che arrivasse un annuncio molto importante per quanto riguarda l'investimento nei media italiani. È chiaro che quindi Mediaset e altri titoli del settore si sono un po' mossi da questo punto di vista, ma Mediaset peraltro molto depressa, che avrebbe bisogno per la verità di novità anche sotto il profilo degli investitori per uno slancio del titolo. L'annuncio per il momento non è arrivato, però insomma Mediaset ha comunque chiuso in positivo, certo, con un rialzo dell'1,7%. Migliori e peggiori in assoluto, allora antichi pellettieri +14,30, Screen Service +9,56, Nokia lo ricordavamo +9,40, Olidata +6,60, Piaggio abbiamo pochi secondi. Bene il titolo, +5,57%. Sì, molto bene, nonostante i dati sulle vendite e immatricolazioni delle moto siano stati negativi, -20% nell'ultimo mese, ma il mercato e gli operatori credono che la spinta di Piaggio in Asia possa compensare nel 2012-2013 il calo in Italia, quindi il mercato è tornato a crederci, qualche casa da fare ha investito, guadagna 5,7% Piaggio e la controllante IMS ha guadagnato il 5,4%. Tra i peggiori invece cito Telecom Italia Media sul risparmio -8,70, TAS -6,30 e poi poco altro, Banca Popolare di Spoleto -4,60%. Sul fronte bancario, visto che dite che non le abbiamo citate, oggi poco mosse, però Banca Popolare +0,50%. Fronte opposto per la Pop Milano e Intesa San Paolo che hanno perso l'1%, come la popolare Emilia Romagna, Monte dei Paschi -1,70%. -18,07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, occupiamoci adesso di due temi abbastanza collegati. Mi riferisco da un lato a quello che è successo ieri, lo trovate oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore, sul decreto sviluppo, dietro front che va a svantaggiare i piccoli imprenditori, piccoli e medi imprenditori nel settore delle costruzioni. E dall'altro le dichiarazioni del ministro Patrone Griffi sui precari nella pubblica amministrazione, e che sta allarmando per le cifre, 260.000, se si dice che forse la metà non potranno essere confermate, stiamo parlando di 130.000 persone. Ora, siamo tutti d'accordo che la pubblica amministrazione debba essere snellita, ma 130.000 con questi chiari di luna sull'occupazione destano qualche perplessità. Lo stesso Patrone Griffi ha parlato anche di quasi 8.000 esuberi nei corpi centrali della pubblica amministrazione, quindi ministeri romani. Andiamo con ordine. Già insomma, nel passato ci siamo occupati del decreto sviluppo, e ricordando come ci siano delle buone intenzioni, ma delle volte sembrino soprattutto delle buone intenzioni. Mi riferisco alla politica energetica, benissimo, ma insomma è una cosa che è di là da venire. Mi riferisco anche alle start-up, bene, ma poco incisivo. C'era una norma, che era quella venduta dal governo come quella forse più incisiva in questo decreto, per far ripartire un settore che è quello delle costruzioni delle infrastrutture, per essere più precisi, che ha un grosso potere anticiclico, cioè permette da sempre, se non bisogna citare ogni volta Keynes o Roosevelt nel 29-30, ma insomma fare le opere infrastrutturali permette di assumere, dare da mangiare, e dovrebbe avere un effetto positivo nel far ripartire i consumi o perlomeno nel frenare la loro caduta. Che cosa è successo? Ieri è stato bocciato l'emendamento che abbassava da 500 milioni a 100 milioni l'importo minimo per le nuove infrastrutture che avrebbero potuto godere del credito d'imposta. Tradotto vuol dire che d'ora in avanti le uniche infrastrutture e opere che potranno godere di uno sgravio fiscale come è il credito d'imposta saranno quelle da 500 milioni di euro in su. Non ci vuole un fine economista per capire che in questo modo si tagliano fuori la stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese italiane che non lavorano su appalti di 600-700 milioni, e questo andrà solo a vantaggio dei grandi gruppi delle costruzioni. 349-238-6666. Ce n'è abbastanza per riflettere anche su, diciamo, una sensibilità più o meno presente nel governo in queste ultime settimane. Dico che il caso è anche emblematico e simbolico, oltre che concreto, perché taglia fuori tutta la platea dei piccoli e medi, delle piccole e medie imprese, che sono quelle che hanno le maggiori difficoltà in questo momento. Lo ricordavamo prima col presidente dell'Istat, le medie e medio-grandi imprese, quando sono collegate ai mercati internazionali, all'export, quando hanno strutture e reti che gli permettono di essere nei mercati che crescono, se la stanno anche abbastanza cavando come dati di fatturato export. Chi soffre terribilmente, stiamo ricevendo messaggi di tutto il distretto, per esempio degli infissi della zona marchigiana, sono le imprese legate ai consumi interni, al mercato interno. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Oggi il quotidiano del Sole 24 Ore prende una posizione molto netta su questo, tu domani scriverai ancora di questa vicenda. Allora, io non so se sia, aiutami tu, più l'insensibilità del governo o in realtà l'insensibilità del Parlamento, perché questo decreto sviluppo è l'ultimo appello prima dell'appuntamento elettorale, prima delle elezioni di marzo o aprile, per far qualcosa di concreto. Non è che possiamo aspettare adesso aprile, maggio, giugno per vedere qualche iniziativa sullo sviluppo, fermo restando che poi il grosso dovrebbe arrivare dall'Europa, ma insomma è l'ultima chiamata, e mi sembra che la risposta sia stata un po' sorda, Guido. Sì, la risposta è un po' sorda, devo dire, da parte di tutte e due le parti che hai ricordato. Da un lato il governo e dall'altro il Parlamento e la stessa strana maggioranza che appoggia il governo Monti, che sostiene il governo Monti. Il governo perché, appunto, come ricordavi tu, è una delle ultime occasioni per questo decreto sviluppo, che poi tornerà per l'approvazione definitiva alla Camera. C'è poi è rimasto in stand-by ancora il provvedimento che riguarda la delega fiscale. C'è la legge di stabilità, che anche qui si annuncia un dibattito abbastanza denso. Sono le ultime occasioni operative per tradurre, diciamo, in fatti le indicazioni da tutte, certo, auspicate negli ultimi mesi. È una manciata di giorni praticamente, e stando a quello che noi possiamo vedere in queste ore, purtroppo l'occasione non viene colta. Ci sono dei ritardi non solo temporali, ma anche delle insufficienze dal punto di vista dei contenuti, perché appunto questo, per esempio, questo secondo decreto sviluppo del governo ha delle, come spiegavate voi, dei punti interessanti, però è una legge sostanzialmente, direi una legge cornice, come si dice, non mette a disposizione subito delle risorse. Lo faceva prevedendo questi sgravi fiscali, ad esempio sulle opere infrastrutturali, ma ovviamente invece siamo tornati indietro, abbiamo fatto un passo indietro, siamo tornati a uno schema per cui vengono tagliate fuori sostanzialmente le piccole e medie imprese, e questo significa non aprire i cantieri, quelli piccoli, non quelli giganteschi, che tra l'altro poi hanno dei problemi successivi, perché quando sono talmente grandi hanno un impatto talmente grande che poi sappiamo quanto sia difficile andare avanti. Quelli piccoli sono quelli che poi danno anche la misura di come può aumentare la fiducia di queste imprese, dei cittadini, degli imprenditori minori. Il nostro in fondo è un capitalismo, come sappiamo tutti, di tipo familiare, e quindi questo, diciamo, sono dei punti nevralgici che verrebbero toccati. Non è stato così, è un'occasione persa. Guido, scusami la domanda, forse un po' stupida, ma mi vengono bene. Ma come mai, con tutto quello che stiamo ripetendo da mesi, anche anni forse, e cioè che a soffrire sono le imprese legate ai consumi interni, che a chiudere sono le aziende, le fabbriche che operano sui consumi interni, che chi ce l'ha fatta, chi è stato bravo e chi si è legato ai mercati esteri, i dati dell'export lo dimostrano, riesce a reggere, regge meglio. Ormai ci sono imprese italiane che esportano il 60-70% della produzione, per cui se ne fregano, tra virgolette, dell'andamento del paese. Cioè, come mai questo non si riesce a tradurre in quella che si sarebbe chiamata una volta l'azione politica? Cioè, com'è che non la capiscono, detto in un altro modo? Non la capiscono perché ripetono sempre più o meno il solito schema che si è andato consolidando in tanti decenni di crescita perduta, diciamo. E nel momento in cui bisognava spingere da un lato sul pedale, diciamo, del risanamento finanziario dei conti pubblici, e questo è stato fatto, ma dall'altro cogliere ogni occasione utile per cercare di restituire fiducia a un paese che è in una crisi di recessione molto molto forte, e questo non si è fatto, e si è diciamo, è stato ripercorso il vecchio binario, innanzitutto dei due tempi: prima il risanamento e poi la crescita, e in secondo luogo sulla qualità di questa crescita, puntando ancora su delle grandi iniziative come nel caso delle infrastrutture, e invece non insistendo su quelle che invece avrebbero dato molto molto più fiducia al paese. Ora, nessuno vuole dire che non siano importanti anche le grandi imprese, ci mancherebbe, però a me sembra, per concludere Guido, che in questo momento, come diceva anche prima il presidente dell'Istat, oltre all'operazione, diciamo, di sgravi fiscali, ci sia un'operazione ben più sottile, ma non meno importante, di ricreare un minimo di fiducia. Allora, tu la fiducia la ricrei sui numeri, non la ricrei, diciamo, dando degli sgravi fiscali a 5 soggetti, seppur grandi, ma dando degli sgravi fiscali a 5.000 o 500.000 soggetti piccoli. Ecco, possibile che questo non venga colto? No, non è colto, e questo è il problema. Se fosse stato colto non saremmo qui a discuterne in questi termini. Purtroppo questo è il limite di questa azione, da un lato del governo, che ha ritenuto di giocare giustamente molte delle sue carte in Europa sul piano del recupero di credibilità del paese, che è stato un lavoro, devo dire, straordinario da questo punto di vista. Però si è fermato, diciamo, a questo livello, quindi un livello, diciamo, molto alto. Non è sceso invece nel dettaglio e nelle azioni di politica economica che secondo me servono per riattivare il circuito della fiducia. E poi l'errore politico della forza di maggioranza, che ormai, forse pensando ormai alle elezioni, non hanno, su questo non hanno, diciamo, non sono state sufficientemente sensibili. Sì, e devono stare attenti, perché poi questo è anche corpo elettorale. Colgo l'occasione di nuovo per ricordare che invece noi non dimentichiamo né il ruolo né l'importanza delle piccole, medie, ma anche piccolissime imprese, e fatemi ricordare ancora una volta l'appuntamento di venerdì prossimo, 14 dicembre, Focus Economia, e poi lo speciale di Radio 24 con Federico Taddia dalle 21 in poi, a Mirandola, a 6 mesi dal terremoto, villa tagliata. Accorrete numerosi, come si dice in gergo. Parleremo nel caso di Focus Economia con gli imprenditori, con gli artigiani, con i commercianti, per capire che cosa sta bloccando alcune risorse lì presenti. 14 dicembre, diretta da Mirandola. Grazie Guido Gentile, le informazioni sul traffico, e poi il tema dei precari dopo l'annuncio di Patroni Griffi. Anche qui devo dire, insomma, forse una comunicazione così delicata si poteva organizzare in maniera, se mi permette il Ministro, leggermente meno estemporanea. Minuti, non se ne abbia il ministro Patroni Griffi, ma confermo il termine estemporanea, cioè leggermente così fuori luogo, nella dichiarazione che ha rilasciato oggi. Cosa ha detto Patroni Griffi in audizione? Ha detto: nella pubblica amministrazione ci sono 260.000 precari, considerate tutte le forme di flessibilità, e va bene. Non è però possibile pensare a una stabilizzazione di massa, il che vuol dire non è possibile pensare a regolarizzare tutti questi precari. E già questo crea, tornando al discorso del clima di fiducia che non c'è, un certo livello di incertezza, perché io fossi uno di quei 260.000 direi bene, quanti non potranno essere stabilizzati? Boh, c'è chi dice la metà. Continua Patrone Griffi, ci sono 7.300 eccedenze nella pubblica amministrazione centrale, quindi ministeri soprattutto, e ha detto poi è da scartare un ulteriore intervento nella riduzione del settore nel pubblico. Durissima la CGIL che dice insomma il ministro non sembra lucido nelle sue dichiarazioni, sembra in stato confusionale. Io vorrei capire, al di là di tutto, che senso abbia annunciare che ci sono 260.000 precari che non potranno tutti essere stabilizzati così, senza sapere poi cosa capiterà. Lo dico alla vigilia del Natale, ripeto, sono 260.000 famiglie probabilmente, no? Non mi sembra che i consumi ne avranno un grosso aiuto in questo paese. 349-238-6666 per i vostri SMS. Allora, professor Carlo Della Ringa, docente di economia alla Cattolica di Milano, editorialista sulle 24 ore, ex presidente dell'ARAN, quindi l'agenzia che gestisce i contratti nella pubblica amministrazione. Buonasera. Buonasera a lei, gli ascoltatori. Mi dica che mi sto sbagliando, Della Ringa, che non è estemporanea la dichiarazione del ministro. No, ci sono delle attenuanti. No. Ogni ministro della funzione pubblica cerca di scaricare sul suo successore le patate bollenti. E in effetti questa è una patata bollente che adesso arriva a scadenza tra poche settimane e in effetti attenuante concessi, bisognava pensarci un po' di tempo, invece succederà probabilmente in un'altra proroga di non so 6 o 7 mesi, in attesa che si faccia un grande accordo con i sindacati per distinguere appunto quelli che hanno il contratto a tempo determinato, quelli che hanno le collaborazioni, quelli che hanno fatto delle specie di concorsi per essere assunti a tempo determinato, quelli che invece no, quelli che avranno una quota nei prossimi concorsi pubblici, quelli per cui è possibile fare sanatorie. Ecco, tutte queste cose sì, si potevano, avendo un po' di tempo, si potevano fare anche un po' prima, perché in effetti adesso sta montando un po' la protesta, ma ripeto, probabilmente si darà una proroga di altri 6-7 mesi in attesa di capire fra quei 260.000 quanti vanno da una parte e quanti vanno dall'altra. No, intendiamoci, io non è che critichi il fatto che 260.000 precari non potranno essere stabilizzati in massa, però sono queste dichiarazioni che lasciano molto perplessi, no? Perché o tu hai anche una soluzione, anche dura, anche amara, e ci indichi qual è la strada, o se no si crea, mi permetta di nuovo il ministro Patrone Griffi, un po' di terrorismo psicologico, che non mi sembra il paese necessiti in questo momento, perché poi dire che ci sono 130.000 precari nella scuola, 115.000 nella sanità, enti locali, 15.000 nelle amministrazioni centrali, non potremmo stabilizzarli tutti, bisognerà gestire gli esuberi e le regole per il pensionamento, se si potrà andare in pensione con le vecchie regole. Le chiedo su questo, Della Ringa, lei dice ogni caso andrà toccato a sé, però ci sono 80.000 precari che hanno il contratto in scadenza a fine anno, che ne facciamo di questi? Sì, quella quella viene prorogata, penso, no, io non voglio mettermi nelle panni del ministro, mi sembra di capire che si dirà più di 36 mesi non possono, perché la legge prevede che dopo 3 anni scade, non si può più rinnovare. Faranno un altro provvedimento legislativo che dirà, immagino, non voglio fare io il ministro, ci vogliono altri 7, diamo una proroga di 7 mesi e in questi mesi diciamo, facciamo i vari gruppi a secondo dei loro percorsi che dovranno seguire. Ecco, ripeto, per carità, presi dall'emergenza è sempre tutto possibile, probabilmente qualcosa prima si poteva fare per capire quello che si doveva fare, perché rischia poi adesso che sarà un altro governo che dovrà prendersi, magari, non lo so, prendersi carico di questa cosa qua. Nel frattempo rimane l'incertezza, e soprattutto in questo periodo in cui, come si sa, è nell'occhio del ciclone anche la storia dei tempi determinati, che le imprese fanno fatica a rinnovarli perché sono aumentati i costi sia monetari che burocratici. Per cui si dice la riforma forse doveva essere più leggera in una fase così di crisi economica. Qui diciamo che alcune amministrazioni sono quelle che hanno abusato di questi contratti qui, e quindi mandarli a casa tutti in queste circostanze mi rendo conto che è un po' complicato. Però bisogna trovare una soluzione che sia rispettosa della legge e che dia un certo grado di certezza a questi 260.000 invece che rimarranno in ballo ancora per diversi mesi. Questa è la soluzione razionale, certamente. No, ma questo voglio dire, perché alcuni ascoltatori mi dicono: ma mi scusi Barisoni, cosa doveva fare il ministro? Sono in bilico, ma non doveva dirlo perché sennò non consumano a Natale. No, io non sto dicendo questo. Sto solo dicendo che o tu aggiungi anche qual è l'iniziativa politica del governo su questo, o se no resta un allarme che crea, a mio avviso, incertezza, insicurezza, quasi terrore psicologico, ma non distinguendo, come lei faceva prima, professor Della Ringa, tra caso e caso, precariato e precariato e quant'altro. Poi alla fine anch'io sono dell'idea che agli sgoccioli di questo governo si arriverà a una deroga, perché sennò non riesce a gestire l'intera cosa. È una bomba. È una bomba, cioè, voglio dire, non puoi 80.000 contratti di scadenza fine anno, cosa facciamo? Non, cioè, non se ne parla. Una botta sola? Mettiamo 80.000. Come lei ha detto giustamente, ci sono quei 7.300 che sono in esubero, che sono solo 7.000, ma anche per quelli poi dovranno trovare una soluzione. Non vuol dire snellire la pubblica amministrazione, ma indicare le vie con cui farlo. Alcuni dicono: ah, ma lei critica il governo senza invitarlo. No, altri vogliono sapere il commento sull'intervento di Polillo ieri. No, non c'è commento su questo. Ringrazio Carlo Della Ringa per averci fatto capire che alla fine la soluzione sarà... No, professore. No, per averci fatto capire che alla fine la soluzione sarà un'altra proroga, e se la vedrà il prossimo governo. Resto della mia opinione sulle dichiarazioni di Patroni Griffi. Auguro a tutti voi in ascolto una buona serata e vi do appuntamento a domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.